Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno, se ci state ascoltando di buon mattino, buon termine di serata se ci ascoltate in replica alle 20.45. Vi ricordo la mail unabusoalgiorno@radio24.it, il mio blog sull'home page del Sole 24 Ore Online, e invece guardie o ladri. Allora, non vi sarà sfuggito, soprattutto leggendo le cronache locali, che quello che sembrava un fenomeno ormai dimenticato, che faceva parte anche del folklore, se vogliamo, di un certo tipo di cinematografia degli anni 40, 50, 60, anche di gag televisive, macchiette e prese in giro, sta tornando, vedremo e scopriremo se prepotentemente o meno alla ribalta. Sto parlando del fenomeno del contrabbando di sigarette. Per molti anni è stato un fenomeno dimenticato, soprattutto a Napoli, ricorderete, era facile trovare, ma generalmente in tutti i porti e posti di mare, stecche che venivano vendute ad un prezzo solitamente più basso, anzi senz'altro più basso, dei rivenditori ufficiali, e la qualità sicuramente ne risentiva. Ebbene, questo fenomeno sta tornando, e per capire perché sta tornando e come sta tornando, noi abbiamo deciso di dedicare un paio di puntate all'argomento, e partiamo proprio da un porto, dal porto di Ancona, ma in realtà partiamo in questo nostro viaggio dalla chiacchierata con il generale Giambattista Urso, che è il comandante provinciale della Guardia di Finanza di Ancona. Buongiorno generale Urso. Buongiorno a lei e buongiorno a tutti i radioascoltatori. Allora, mi corregga se sbaglio che il fenomeno in aumento. Io ho sotto gli occhi le tabelle che lei mi ha gentilmente mandato. Ebbene, nei primi mesi del 2009, nei primi tre mesi del 2009, è stato già raggiunto un quantitativo di merce sequestrata pari alla metà di quello che fu sequestrato nel 2007 e nel 2008. Prego, generale. Sì, in effetti, come lei appunto accennava, è un fenomeno che dai dati statistici noi rileviamo in una tendenza crescente. Naturalmente si tratta di un fenomeno che è legato prevalentemente a quelle che sono le dinamiche di mercato, e quindi, come lei accennava, alla cosiddetta remuneratività dell'offerta sul mercato di prodotti a prezzi naturalmente concorrenziali rispetto a quelli che seguono i canali ufficiali. E di conseguenza le organizzazioni che naturalmente investono i loro capitali illeciti anche in queste forme di attività naturalmente tendono a trarre maggiori profitti, e di conseguenza si registra come conseguenza appunto dell'attività svolta un monitoraggio di quelle che sono le azioni repressive che la Guardia di Finanza svolge. Ecco, parliamo di queste azioni repressive, cioè parliamo della vostra organizzazione. Come siete attrezzati per stroncare questo tipo di traffico? Bene, la Guardia di Finanza, come è già notorio a tutti, e sulla base anche del provvedimento legislativo 68 del 2001, ha consolidato quelli che sono i suoi compiti istituzionali, che risalgono già dalla sua istituzione, si può dire appunto, che è quello del contrasto a queste forme di illeciti che vengono perpetrati tramite appunto i varchi doganali e comunque la penetrazione di merce in contrabbando nel territorio nazionale, che ora è divenuto anche territorio comunitario. Naturalmente la struttura prevede tre livelli di intervento: uno sul piano preventivo, uno sul piano repressivo e un altro investigativo. Naturalmente sono tutti interconnessi e sono naturalmente il frutto di un dispositivo di contrasto che riguarda non solo le strutture doganali, ma riguarda tutte le fasce costiere, sia con unità navali aeree sia con unità a terra che svolgono naturalmente questo tipo di attività. Quindi il primo gradino, diciamo, è quello proprio del contrasto con le unità navali e con le unità aeree. Sicuramente quella è la nostra peculiarità, ecco, per quanto riguarda l'azione che viene svolta di contrasto, nell'area appunto marittima. Quindi prima ancora che la merce possa arrivare in buona sostanza all'interno del porto di Ancona. Sì, non solo, ma in tutta quella che è naturalmente le fasce costiere che certo, il territorio nazionale. Assolutamente. E naturalmente a monte di questa attività, che è quella appunto di carattere essenzialmente preventiva, esiste un'azione collaterale di intelligence. La Guardia di Finanza svolge attività di monitoraggio anche con i propri addetti, che sono anche ufficiali dislocati presso territori esteri, dove vengono appunto monitorati anche aborigeni fenomeni e naturalmente. Quindi dislocati all'estero vuol dire generale sostanzialmente, per quello che vi riguarda, soprattutto i paesi dell'ex Jugoslavia, i paesi dei Balcani che si affacciano di fronte alle coste marchigiane. Anche e non solo. Anche e non solo, bene. Naturalmente tutta questa attività, che è un'attività naturalmente di raccolta di informazioni, ma non solo, ma di elaborazione e analisi soprattutto, analisi di contesto, analisi strategica naturalmente per indirizzare e meglio convogliare quelle che sono le risorse di cui dispone il porto. Questo tipo di organizzazione è in mano alla malavita o organizzata, criminale, voglio dire quella italiana e quella estera, oppure si tratta di pesci piccoli che organizzano quasi un commercio improprio, diciamo così, impropriamente? Io vado per paradossi, lei mi corregga pure ovviamente. Sì. No, diciamo che un'organizzazione di questo tipo, quindi l'introduzione nel territorio nazionale e comunitario di prodotti in contrabbando, specialmente di tabacchi lavorati esteri, sottintende un'organizzazione di un certo tipo, quindi di un approvvigionamento di capitali da investire, contatti naturalmente con le fonti di produzione, un'organizzazione di allocazione e di camuffamento del prodotto per l'introduzione nel territorio nazionale e comunitario, e una rete anche di distribuzione capillare che consente appunto il conseguimento dell'illecito profitto. Ecco, ma organizzazione cosa vuol dire? Diciamolo in termini un po' più volgari per i nostri radioascoltatori, vuol dire che il mercato è in mano alla Camorra, all'Andrangheta, a Cosa Nostra? Diciamo, a chi è in mano? Prevalentemente dalle nostre attività investigative emerge proprio questo dato, che e naturalmente dove ci sono interessi, e quindi questo è un mercato dove sicuramente è storicamente legato ad ambienti appunto camorristici, sicuramente una delle attività prevalenti dove vengono convogliate queste risorse sicuramente da parte di questo tipo di organizzazione. Ho capito. Senta generale, prego. Ci sono evidenze anche, però ecco, dobbiamo dire, ci sono evidenze che lasciano anche percepire che ci esistono anche altre forme associative delinquenziali dello stesso tipo, che pur non stabili nel territorio nazionale comunque operano nello stesso settore, e quindi di conseguenza ci sono forme anche concorrenziali. E ricordo quando ero ragazzo, ancora visitavo Ancona, ora è qualche anno che manco, non era infrequente trovare, specialmente lungo il porto, gente che vendeva proprio stecche di sigarette di contrabbando. Oggi esistono ancora questi banchetti, oppure prendono altre strade invece la merce che voi sequestrate e quella che purtroppo non riuscite ad intercettare? Questo fenomeno è assente nella provincia di Ancona e soprattutto nella città di Ancona, ma non per un'evoluzione proprio del fenomeno, come appunto lei diceva. Certo. Cioè, in sostanza adesso le organizzazioni contrabbandiere legate appunto alle forme associative che abbiamo fatto cenno sono più orientate a far confluire la merce in contrabbando, quindi soprattutto i tabacchi lavorati esteri, verso quei mercati dove c'è una maggiore produttività in termini di guadagni illeciti, e quindi di conseguenza vengono indirizzati verso i paesi del nord Europa, ma soprattutto del Regno Unito. Qual è il risparmio in media su una stecca dove viene poi acquistata, quindi nel mercato finale di destinazione, rispetto al costo appunto originale? Giusto per darle un dato così significativo, senza fare riferimenti naturalmente a marche, a prodotti, certo. Diciamo che mediamente, proprio facendo leva sui dati che mi sono stati forniti dalla manifattura di Chiaravalle, dato che lei conosce molto bene Ancona, sicuramente conosce anche quella realtà, è una manifattura di tabacchi, loro ecco, mi hanno dato come dato, diciamo, di riferimento che alla produzione un pacchetto di sigarette costa attorno allo 0,50 centesimi di euro, che sì, significa un prezzo modestissimo. Naturalmente sul mercato, mediamente, ecco, basta raffrontarlo ai prezzi correnti di mercato, si capisce quali sono i possibili profitti, naturalmente con grandi guadagni per questa organizzazione. Quindi il costo medio del pacchetto di sigarette, per esempio nel Regno Unito, è di 8,16 euro, mentre in Germania è 4,7, in Olanda 4,6, quindi abbiamo un divario, ecco, a livello di costo e reddito assolutamente sproporzionato. Se in Italia costa 0,50 centesimi la produzione di un pacchetto, figuriamoci in altri paesi quanto costa, e quindi proporzionalmente quanto aumentano i margini di guadagno per chi opera in contrabbando. Si avvale dei reparti speciali, che sicuramente, ecco, sotto questo aspetto indirizzano i reparti operativi territoriali, danno naturalmente degli input investigativi che poi vengono tramutati in attività di contrasto, quindi che non è solo repressiva, di sequestro e arresto di coloro che commettono questi illeciti, ma soprattutto indirizzati anche sul fronte economico, quindi dell'aggressione degli illeciti guadagni e profitti di questa organizzazione. Generale, io la ringrazio per questa chiacchierata, ci dobbiamo fermare qui. Ovviamente dico ai miei radioascoltatori che domani torneremo ancora a parlare di contrabbando di sigarette con un nuovo ospite. Io dico grazie regia Fabio Cantadori e in studio Laura Faggin, e Roberto Galullo vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata.